dettagli sui rapporti tra Ligresti e La Russa. Quest'ultimo avrebbe ricevuto oltre 400.000 euro dall'azienda quando era ministro. In Sardegna, Olbia, l'alluvione era iniziata già domenica. Da stasera si attendono tra l'altro nuove precipitazioni intense. Sotto accusa il consumo del suolo, ospite tra poco ad effetto giorno il ministro dell'Ambiente Orlando. A Genova, quarto giorno di sciopero selvaggio dei lavoratori del trasporto pubblico locale e nuovo corteo. Lunedì la protesta potrebbe spostarsi a Roma ed estendersi a livello nazionale. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. In apertura dunque le parole del Presidente del Consiglio Enrico Letta, che torna nel giorno dell'Eurogruppo sul tema del rigore e della crescita, con parole dure, e lo fa tra l'altro prima della sua partenza per Berlino. Stiamo battagliando e combattendo su due fronti. Stiamo battagliando e combattendo sul fronte europeo, ma stiamo battagliando e combattendo anche sul fronte interno. Due fronti e noi siamo in mezzo, spiega Letta poche ore dalla sua partenza per Berlino. Da una parte il fronte europeo, quello degli ayatollah del rigore, per i quali questo non è mai abbastanza, ma che non hanno capito che di troppa austerità si muore. Dall'altra il fronte interno di chi pensa che si possa fare deficit e debito. Noi abbiamo bisogno invece di alleati dentro il nostro paese e in Europa, per capire che la stagione del solo rigore deve essere quella che ci lasciamo dietro le spalle, per capire però che la stagione della crescita deve essere basata su conti a posto e sul fatto che, come accadrà l'anno prossimo, il nostro paese avrà per la prima volta dopo tanti anni sia il debito pubblico in discesa sia il deficit pubblico in discesa. Conti a posto dunque, ma anche una politica di rilancio della crescita, concetto sul quale Letta insiste da sempre e che ribadirà oggi a Berlino. Spiegherò, dice il Premier, che l'Italia ha le carte in regola perché a livello europeo la sua voce sia ascoltata. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Oggi, come si diceva, all'Eurogruppo all'esame c'è il piano di privatizzazioni presentato ieri e in generale la politica economica del governo. Sentiamo dunque il servizio e l'analisi. Il ministro dell'economia Saccomanni va a Bruxelles con la bozza della legge di stabilità sotto braccio, come lui tutti gli altri colleghi europei. Eurogruppo importante ma non solenne, verranno passate al vaglio tutte le misure adottate o ipotizzate, però il verdetto non arriverà prima di febbraio, in occasione delle previsioni economiche invernali. Solo allora quelle che adesso sono stime saranno numeri reali, basati su leggi approvate. La qualcosa ci riguarda molto da vicino, l'Italia arriva al vertice portando la novità delle privatizzazioni. Più che novità vera e propria, si tratta di un passo avanti, visto che ora una lista c'è e comprende Eni, per esempio, e Fincantieri. Difficile però sapere adesso quanto lo Stato ci guadagnerà. Forse nemmeno a febbraio sarà possibile saperlo. Ecco perché la Commissione ha aspettative molto più alte sulla spending review, che dovrà avere ricadute già sul prossimo anno. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo alcuni mesi di tregua, l'Italia è tornata sotto esame a Bruxelles. La finanziaria presentata dal governo Letta non ha convinto, fosse solo perché non prevede una riduzione sufficiente del debito pubblico nel 2014. Ormai molto dipende dalle privatizzazioni e dalla spending review per tornare a convincere la Commissione europea e i paesi partner. L'annuncio delle dismissioni di ieri è stato accolto con un significativo silenzio per ora. Le privatizzazioni sono difficili da giudicare prima che avvengano. Troppe incognite pesano su operazioni finanziarie, politicamente ed economicamente delicate. Lo stesso vale per la spending review. Gli annunci a scatola chiusa sui tagli alla spesa pubblica in questo momento non bastano. Se il governo Letta vuole riuscire a recuperare margini di manovra sulle finanze pubbliche, dovrà dimostrare costanza, coerenza e trasparenza. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E ospite di Giovanni Minoli a Mix 24, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà, che parla anche di privatizzazione della RAI. Sentiamo cosa ha detto. Lei è stato il primo a parlare di privatizzazione della RAI. Adesso sembra che abbia cambiato idea. Perché? No, io ho parlato di privatizzazione di qualche asset della RAI, sì, quando la concessione era in piedi ed era bella lunga. Ora siamo a 2 anni dalla scadenza della concessione e mi pare che parlare di privatizzazione sia veramente antieconomico, sarebbe un fuor d'opera. Quindi non è e non sarà sul mercato fino al 2016, poi si vedrà. Io penso proprio di no, venderemmo un asset privo di valore. Senza bollino ai programmi, aggiunge, non ci sarà il nuovo contratto di servizio tra Rai e Stato, e aggiunge, non demorderò e non firmerò un contratto di servizio che non ce l'abbia. Siamo alla politica, che ci porta ancora a parlare della decadenza di Silvio Berlusconi. Il voto alla fine sarà il 27, sembra la versione definitiva questa, Elisabetta Fiorito, è così? Sì, sembra la versione definitiva della saga sul voto per Silvio Berlusconi. Il voto si terrà, come è previsto, al Senato il 27 novembre. A confermarlo il presidente di Palazzo Madama, Piero Grasso. Nessun rinvio, perché non si ravvisano gli estremi per una nuova convocazione del Consiglio di Presidenza. La questione, lo ricordiamo, era stata posta da Forza Italia e dal nuovo centrodestra per violazione del segreto in occasione del voto finale in giunta per le elezioni lo scorso 30 ottobre. Ma per Grasso i componenti della giunta per le elezioni non hanno rivelato elementi riferibili all'andamento dei lavori in Camera di Consiglio. Poi nessuno ha chiesto sanzioni disciplinari per i senatori collegati al web, ma arriva subito ovviamente la replica di Forza Italia e di nuovo centrodestra. Sandro Bondi attacca in aula Grasso, accusandolo di non aver mai smesso le vesti e lo stile del magistrato, ha dimostrato di non essere sopra le parti ma partigiano. Per Renato Schifani, nuovo centrodestra, la questione rimane irrisolta, i lavori non erano conclusi, mancava il numero legale ed è stato violato il segreto. Comunque il voto confermato per il 27, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Ora parliamo dell'inchiesta Fonsai, perché emergono versamenti a Ignazio La Russa quando era ministro. Sentiamo. Raccontano i suoi ex collaboratori che la sua rete di rapporti Don Salvatore la curasse personalmente e la sollecitasse ogni volta che c'erano amici da accontentare e problemi da risolvere. La storia della sua galassia racconta poi anche che quegli amici, il patron di Casa Ligresti, li portasse oltre che in vacanza pure all'interno delle sue aziende. Quello che invece ora soprattutto le inchieste raccontano sono i soldi che dalle casse delle società finivano a vario modo a quegli stessi amici, come Ignazio La Russa, non indagato, che ai tempi in cui era ministro della difesa percepì però dal gruppo 451.000 euro per prestazione di servizi e parcelle spese sinistri, come risulta da un documento dell'ISVAP del biennio 2009-2010. L'ex ministro, titolare di uno studio legale a Milano, è negli atti considerato parte correlata perché fratello dell'allora consigliere Fonsai Vincenzo, nonché padre di quel Geronimo che della società controllante Premafin era amministratore, e fu lui a fatturare 211.000 euro tra servizi vari. Fin dalle prime richieste di informazioni della Consob emerse quanto stretta fosse la collaborazione tra la Galassia Ligresti e la famiglia La Russa, che per varie prestazioni aveva ottenuto in totale più di 2 milioni di euro. E fu anche l'ex ministro a seguire direttamente come avvocato la fusione Unipol Fonsai, perché gli amici nel mondo di Don Salvatore sono sempre venuti prima di tutto. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso noi ci spostiamo a Genova. Genova che vive il quarto giorno di caos per i trasporti. Ancora fermi i lavoratori della MT contro le ipotesi di privatizzazione. Una protesta che si potrebbe estendere anche a livello nazionale. Ne parliamo con Andrea Ferro, che ci sta aggiornando quotidianamente su tutto questo. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Credo che riusciate a sentirmi. Io vi sento molto male, sono in mezzo al corteo dei lavoratori di MT che è appena giunto davanti al Palazzo della Regione. Questo corteo è partito dopo le 11.30 dalla sala chiamata del porto, dove si è svolta un'assemblea piuttosto accesa, nel corso della quale è stata discussa la situazione dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera che di fatto apre alle privatizzazioni. È emersa la volontà di estendere la protesta a livello nazionale, era presente anche una delegazione di Autoferro Tranvieri giunta da Roma. Ci sono dichiarazioni significative a questo proposito del segretario della FAISA-CISAL, Andrea Gatto, che ha detto: Genova è la scintilla di un incendio che si espanderà in tutta Italia, ora devono essere i sindacati generali a diffondere le fiamme nelle altre città. Poi c'è la questione Grillo, una delegazione di esponenti grillini, che lavoratori della MT, ha ricevuto in mattinata la telefonata di Grillo, che ha detto: vengo alla sala chiamata, sono con voi. Ci sarebbe stato l'avversione da parte delle, sindacati, dei rappresentanti dei leader della protesta, che hanno detto non vogliamo essere strumentalizzati da nessuno. Lo stesso Gatto ha detto, numerosi politici hanno chiesto di aderire alla nostra protesta, vogliamo evitare strumentalizzazione e passerelle, questa è e deve restare una protesta dei tranvieri. Se i politici vogliono sfilare con noi sono ben accetti, ma microfoni e telecamere se li vanno a cercare da un'altra parte. Contemporaneamente però si è diffusa la voce che Grillo si sarebbe comunque inserito nel corteo. Io non sono nelle condizioni di vederlo in questo momento, mi porto più vicino al palazzo della regione e noto solo un servizio d'ordine che in questo momento è stato allestito dagli autisti di MT per evitare eventuali provocazioni non da parte di Grillo ma di ragazzi dei centri sociali anarchici che sono stati visti nella piazza. Certamente ci sono grandi timori per l'ordine pubblico, i sindacati ripetono l'appello, la protesta è dura ma deve rimanere civile, il pericolo, come si diceva, è quello delle strumentalizzazioni. Simone, hai altro da chiedermi? Ti ringrazio Andrea, se vedessimo aggiornamenti e se ce ne fossero naturalmente puoi chiederci la linea quando vuoi, perché ovviamente abbiamo sentito anche di sottofondo botti, probabilmente dei petardi che sono stati lanciati durante la manifestazione. Noi adesso ci spostiamo in Sardegna per ancora naturalmente le cronache dall'alluvione, da quella che il presidente della Sardegna Cappellacci ha definito una piena millenaria, iniziata in realtà un giorno prima di quanto riportato in queste ore. L'inviato del Sole 24 Ore Mariano Maugeri anche oggi con noi. Mariano, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, che ci puoi raccontare su questo fronte? Ma la città era sott'acqua già domenica, cioè quando arriva l'allerta della Protezione Civile Nazionale alle 16 di domenica, la città è già sott'acqua, molti rii sono straripati soprattutto nella zona di Via Aldo Moro nel quartiere di Pittulongu e molti abitanti del quartiere Pittulongu dicono ma perché il comune non interviene, abbiamo la casa allagata e ci vuole un morto come era successo a Capoterra nel 2008 perché qualcuno si renda conto della gravità della situazione. Quindi la pioggia torrenziale che si scatenerà esattamente 24 ore dopo l'allerta della Protezione Civile, cioè lunedì alle 17, e crea una situazione drammatica proprio perché la pioggia continuava copiosa da almeno 30 ore, quindi c'è stato come dire un fronte temporalesco lungo quasi due interi giorni, ecco perché il terreno non ha più assorbito, ecco perché città che era già sott'acqua domenica, lunedì poi ha vissuto quello che sappiamo. Grazie Mariano Maugeri anche per gli aggiornamenti di oggi. Ancora per quanto riguarda la situazione del maltempo, ci sono un paio di notizie che vi devo dare. A causa delle forti piogge nella notte, il comune di Agropoli, provincia di Salerno, ha disposto l'evacuazione di una scuola media che si trova nei pressi del fiume Testene, spero di pronunciarlo con l'accento giusto. Il livello del corso d'acqua è salito a livelli d'allerta e si teme l'esondazione. Per quanto riguarda invece la provincia di Bergamo, dove è caduta una nevicata nelle ultime ore a oltre il colle, è rimasta senza elettricità la località Zorzone, 300 abitanti sono al freddo dalla scorsa notte. Anche qua, se ci saranno aggiornamenti, ve ne daremo. Noi ritorniamo alla cronaca, anzi restiamo sulla cronaca e parliamo dei furti di rame, perché oggi è stato presentato una sorta di bilancio, come sapete c'è una cronaca quasi quotidiana su questo fronte, è stato presentato un bilancio dalla polizia di questi primi sei mesi dell'anno e l'incremento è veramente impressionante. 25 milioni di euro di perdite l'anno è il danno subito dalle ferrovie dello Stato a causa dei furti di rame. 10 milioni si spendono per sostituire il materiale rubato, altri 15 invece rappresentano il costo del personale che deve ripristinare la rete, oltre ai danni a carico dei passeggeri, come spiega l'amministratore delegato dell'FS, Mauro Moretti. Il dramma sono per gli indotti ai nostri passeggeri. Nell'ultimo anno abbiamo avuto l'equivalente di 124 giorni di treni fermati, che vuol dire un grandissimo disagio, un enorme disagio per i passeggeri, i pendolari sono i più colpiti. Non a caso il rame viene chiamato l'oro rosso, il suo valore negli ultimi anni si è moltiplicato, adesso viene venduto a 10.000 euro a tonnellata. Quest'anno in Italia ne sono state sequestrate 117 di tonnellate e si teme che dietro ci sia un'organizzazione. Il problema è fare un salto di livello, agire per spezzare il giro della ricettazione che poi riporta questo rame ai fornitori delle nostre aziende. Adesso per arginare il fenomeno si pensa a un sistema di tracciabilità del rame. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso noi ci fermiamo per la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo e torneremo a parlare di Sardegna e lo faremo col ministro dell'ambiente, non solo di quello, col ministro dell'ambiente Andrea Orlando. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Letta dice no agli ayatollah del rigore e oggi il presidente del Consiglio sarà a Berlino. Intanto si riunisce l'Eurogruppo, all'esame anche il piano di dismissioni presentato ieri. Genova, al quarto giorno di sciopero selvaggio dei lavoratori del trasporto pubblico locale, nuovo corteo, sarebbe apparso, si sarebbe fatto vedere anche Beppe Grillo. Lunedì la protesta potrebbe spostarsi a Roma ed estendersi a livello nazionale. Catricalà, Radio 24, privatizzare la RAI non prima del 2016, senza bollino per identificare i programmi pagati col canone, non rinnoveremo il contratto di servizio. E noi adesso, in apertura di questa seconda parte di Effetto Giorno, torniamo a parlare di Sardegna e non solo di Sardegna, a dire la verità. Saluto Andrea Orlando, Ministro dell'Ambiente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dico non solo, perché in realtà lei ci sta parlando da Varsavia, dove è in corso il vertice sul clima. Allora, come stanno andando le cose? Un po' meglio di ieri, nel senso che ieri sembrava che la conferenza si chiudesse in un nulla di fatto, oggi ci sono stati invece alcuni passi avanti, nel senso che i paesi in via di sviluppo hanno accettato alcuni impegni a fronte di una maggior precisione sulle risorse finanziarie che invece i paesi sviluppati metteranno. Ora sono le ultime ore, diciamo che potremmo chiudere con una ipotesi che porta alla prossima conferenza di Parigi con qualche speranza di fare dei passi avanti. Circola ormai molto scetticismo su questi vertici, Ministro, oggettivamente, insomma, anche per i risultati ai quali hanno portato, che sono insomma tutto sommato molto, molto limitati, soprattutto negli ultimi anni, anche banalmente dal punto di vista degli accordi e dal punto di vista politico. Beh, è uno scetticismo giustificato. Pensiamo che alcuni paesi, grandi emissori come il Brasile, sostiene una teoria che renderebbe impossibile qualsiasi accordo, cioè sostanzialmente noi incominceremo a seguire degli impegni quando avremo inquinato quanto avete inquinato voi, rivolgendosi ai paesi del cosiddetto nord sviluppato. Quindi un'impostazione che è comprensibile in astratto, ma che in concreto non consentirebbe nessun passo avanti. Mi pare che la Cina oggi stia incominciando a cambiare un po' posizione e questo aiuta a spostare un po' gli equilibri a livello globale, ma naturalmente la strada è in salita, non nascondiamocelo, e si può soltanto fare questa salita se si mette nel conto che a fronte di una richiesta di impegni sul modello di sviluppo l'Occidente sia disponibile a investire risorse in cooperazione, in sostegno tecnologico ai paesi che vogliono appunto seguire una strada diversa. La voglio portare sulla questione della Sardegna e voglio partire però da un dato, ve lo abbiamo fornito due giorni fa in realtà in questa trasmissione, lo ha citato il Sole 24 Ore. Allora, tra il 1997 e il 2007 a Olbia sono sorti 23 nuovi quartieri, è un numero pazzesco, Ministro, e probabilmente ha molto a che fare con quello che è successo, quantomeno col numero di vittime che ci sono state. Beh, forse col numero di vittime no, perché come il sindaco di Olbia ha dichiarato, in molte delle vittime erano in luoghi diciamo non urbanizzati, sicuramente con l'impatto che ha avuto sul contesto urbano, sì, e sull'impermeabilizzazione dei suoli che si è venuta a determinare a causa appunto di questa crescita edilizia. Io le dico soltanto una cosa che mi sembra sintomatica. Noi abbiamo come governo approvato una legge sul consumo del suolo, che naturalmente deve essere approvata poi dal Parlamento, che prevedeva due cose fondamentali. Prevede due cose fondamentali: non si possono usare gli oneri di urbanizzazione per fare cassa e non si può costruire sul terreno agricolo o sul terreno non urbanizzato se prima non si è riutilizzato se non si sono riutilizzate le aree urbane sottoutilizzate o abbandonate. Abbiamo tantissima appartamenti sfitti, abbiamo aree degradate e non abitate. E quella legge è rimasta ferma fino a qualche giorno fa alla conferenza unificata delle regioni, perché accettare l'idea di un vincolo così forte non è una cosa che va liscia. Lei dice che le regioni fanno resistenza su questo? Beh, ci sono naturalmente obiezioni anche fondate in ordine alle competenze, però sicuramente c'è ancora una idea secondo la quale la crisi si può affrontare attraverso la crescita edilizia che stenta ad essere superata. Probabilmente anche i comuni stessi fanno resistenza su questo, perché comunque gli oneri di urbanizzazione fanno cassa, appunto, quindi se il cardine del decreto è esattamente quello di no, smettetela di fare cassa con gli oneri di urbanizzazione, evidentemente i comuni fanno resistenza, e forse di conseguenza anche le regioni, perché comunque è tutta parte del territorio. Non facciamo i processi alle intenzioni, nel senso che l'ANCI ha dato un parere che rappresenta i comuni, ha dato un parere positivo, ma le vorrei dire una cosa in più: anche l'ANCE, che invece è l'associazione dei costruttori, ha caldeggiato questa legge, perché ormai ci si rende conto che al di là di chi ha la rendita e pensa di fare qualche soldo con il terreno, anche le imprese edili, anche chi opera in questo settore, capisce che ormai non si crescerà attraverso le villette a schiera, i nuovi condomini, ma soltanto attraverso sull'intervento di riqualificazione dell'esistente. Abbiamo l'80% del patrimonio edilizio che ha necessità di ristrutturazioni. Quindi certo l'edilizia, ma un'altra edilizia rispetto a quella che abbiamo conosciuto negli anni 70 e 80. L'altro ieri abbiamo avuto ospite anche l'assessore all'ambiente e protezione civile della regione Sardegna, il quale ha detto una frase secondo me molto forte, perché noi adesso, lei, abbiamo parlato del futuro, no? Cioè, se viene approvata la legge sul consumo del suolo, le regole saranno queste. Il problema è che c'è tutto un esistente, e lui ci ha detto: se dobbiamo pensare a questo, all'esistente, ci sarebbero da radere al suolo intere città. Beh, questa è un'idea, un modo di affrontare la questione, per dire che siccome c'è tanto da fare non si può fare niente. Intanto incominciamo a fare le cose più urgenti, per esempio abbattere gli abusi edilizi che si sono realizzati nelle alvei dei fiumi. Io ho stanziato 10 milioni di euro per fare esattamente questo tipo di operazione. No, sono pochi per il dissesto idrogeologico quelli che abbiamo a disposizione, sono sufficienza quelli che per fare questo semplice tipo di operazione, abbattere gli abusi che si sono realizzati in zone di frane e in zone dove c'è rischio idrogeologico. Si tratta di interventi che in teoria dovrebbero essere pagati poi da chi ha realizzato l'abuso, ma che i comuni non riescono spesso a fare perché con le condizioni finanziarie che hanno dovrebbero fare un mutuo per fare questo tipo di opera, e si capisce che fare un mutuo per abbattere una casa a fronte di tante altre emergenze che in questo momento non ci sono può essere una cosa difficile. E noi abbiamo messo questa somma che intanto risolverebbe il problema di alcune realtà che sono, diciamo così, che gridano allo scandalo. Poi, secondo me, anche senza pensare di abbattere interi quartieri, una seria opera di prevenzione si può fare, e poi su questo magari forse è meglio spendere qualche parola, ma poi soprattutto, insomma, ci sono realtà nelle quali si è costruito particolarmente male e si può anche pensare di prevedere dei piani di abbattimento e poi di ricostruzione, anche consentendo di spostare quei volumi. Ecco, non è che adesso, siccome ci sono appunto situazioni che sono tutte in qualche modo cresciute male, allora bisogna, siccome c'è questa enorme massa di cose da fare, allora non facciamo niente. Cominciamo a fare le cose più urgenti. Qualche soldo in più in legge di stabilità per il dissesto idrogeologico riuscite a mettercelo, magari con gli emendamenti che stanno arrivando, oppure no? Beh, guardi, io mi auguro vivamente di sì e credo che il Parlamento stia agendo in questa direzione, però le aggiungo anche una cosa: al di là delle delle risorse che riusciremo a mettere quest'anno. C'è un problema enorme di capacità di spesa, anche dei soldi che sono già stati stanziati. Ecco, questo è un tema interessante. Trigilia ha detto l'altro giorno in commissione che l'Unione Europea nel giro di nella 2007-2012, diciamo, è quello il range di finanziamento quinquennale, l'Unione Europea ha stanziato 5 miliardi per la difesa del suolo e siamo riusciti a spendere 1 miliardo. Ma io rimango sconvolto di fronte a queste cifre di solito, perché insomma vuol dire che abbiamo speso il 20% di quanto ci è stato assegnato. Sì, è la stessa Europa, però ci mette un vincolo rispetto alla spesa, per cui i soldi stanziati nei bilanci delle regioni poi non possono essere spesi per il patto di stabilità. Quindi questo è un pezzo del problema che andrebbe risolto: togliere dal patto di stabilità le risorse necessarie all'intervento su questo fronte. Poi c'è anche un incapacità. Lo potete fare? Lo potete fare, Ministro? Pensate di farlo? In parte c'è una flessibilità che quest'anno viene riconosciuta, che io credo dovrebbe essere utilizzata non per qualunque tipo di opera, ma con priorità al dissesto idrogeologico, che a mio avviso è la più grande opera infrastrutturale del paese. Non fosse altro per i danni che provoca la mancata prevenzione. Perché anche il suo collega Lupi dice che ci state pensando appunto a questa questione di togliere dal patto di stabilità i soldi investiti nel dissesto idrogeologico. Pensate di riuscire a farlo a breve? E io mi auguro che una quota significativa sì, possa essere tolta dal patto di stabilità, ma gli aggiungo una cosa però per onestà intellettuale, c'è anche un problema poi una volta che i soldi sono spendibili, di progettare e spenderli in tempi utili. Noi abbiamo fatto due cose nel collegato e nella legge di stabilità. Uno, semplificare la filiera istituzionale. È inammissibile che i soldi che ci sono non siano spesi per conflitti tra gli enti. Ci vuole un soggetto unico che dica che tipo di programmazione si deve fare in questo tipo di interventi e dica l'ultima parola. E quindi abbiamo costruito dei distretti che si devono occupare di questo, accorpando una serie di enti già esistenti attualmente. E l'altra questione che è fondamentale è quella di riuscire a fare in modo tale che tutti i soldi che non sono stati spesi, che sono stati messi nelle contabilità speciali attraverso i diversi commissariamenti sui disastri idrogeologici, vengano ripresi e rimessi nei bilanci, perché chi non ha saputo spendere è anche giusto che in qualche modo paghi un prezzo. Gli enti che non hanno saputo spendere in qualche modo è giusto che subiscano una riallocazione delle risorse. Brevemente, perché in parte collegata siamo quasi in chiusura, in parte collegata alla questione del consumo del suolo. Ieri ha fatto discutere la sua posizione in merito all'emendamento sugli stadi, ossia sulla possibilità di costruire nuovi stadi e palazzetti dello sport. Dopo, da quel che ho capito, una sorta di fraintendimento iniziale, in realtà si è capito che lei diceva: cerchiamo di collegare la cosa proprio al DDL sul consumo del suolo del quale ci parlava. In sostanza è questo. Sono due cose diverse che nell'ipotesi di emendamento, che peraltro io non ho potuto vedere, circolavano. Una, associare agli stadi la realizzazione di nuovi volumi invece per abitazioni, uffici, commerciali, è cosa che rischia di essere un cavallo di Troia. Facciamo una legge per contenere il consumo del suolo e in qualche modo poi la giriamo immediatamente con un emendamento del genere. Guardi, è appena uscita tra l'altro un'agenzia del suo collega Del Rio, dice abbiamo elaborato un testo definitivo in queste ore nel quale appunto non si prevede nessun automatismo per quanto riguarda gli insediamenti abitativi collegati, no? Il governo non darà nessuna procedura accelerata per la parte degli insediamenti abitativi intorno, mettiamo così, agli stadi, insomma. E questo è un fatto già positivo. L'altro aspetto è che non è indifferente se lo stadio si realizza in un'area vergine o invece riqualificando un'area già in qualche modo compromessa dal punto di vista urbano. Cioè, noi abbiamo tantissime periferie industriali, capannoni vuote, zone degradate che possono essere anche vedere anche in un investimento come uno stadio un momento di riqualificazione. Altra cosa invece è continuare a consumare del suolo. Noi abbiamo, pensa, ci vuole un supplemento di riflessione su questa cosa degli stadi? No, basta coordinare, diciamo, questa previsione con la normativa che richiamavo. Ci tengo a precisare che non ho nessuna contrarietà o ostilità nei confronti degli stadi. Dipende da uno, se sono il presupposto a speculazioni edilizie, allora diciamo no. E due, due, se sono un momento di riqualificazione oppure un ulteriore momento di consumo del suolo. Sono due cose completamente diverse. Io credo che l'emendamento debba tener conto di questo aspetto. Torna in Sardegna? Vado, sì, domani al rientro dalla Polonia mi recherò in Sardegna. Grazie Ministro Orlando per essere stato con noi e buona giornata. Grazie a lei. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Genova, ancora una giornata di caos, quarto giorno di sciopero selvaggio dei lavoratori del trasporto pubblico locale, c'è anche Grillo in uno dei cortei. Bruxelles, bene le dismissioni annunciate dall'Italia, ma per utilizzare il bonus investimenti resta l'esigenza di misure strutturali. Catricalà, Radio 24, privatizzare la RAI non prima del 2016. Inchiesta su Fondiaria Sai, la russa avrebbe ricevuto oltre 400.000 euro dall'azienda quando era ministro, erano parcelle precedenti all'incarico istituzionale, replica lui. È il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi, oggi sulle nuove BR. Segnali di tentativi di ricostruire il partito armato. Negli anni della più drammatica crisi economica ce ne sono stati ed è difficile considerarli solo eventi occasionali, perché nella storia delle Brigate Rosse vecchie e nuove prima si scrivono, se non proprio risoluzioni strategiche, certamente documenti di dibattito interno tra militanti incarcerati, e poi qualcuno rimasto in sonno passa inesorabilmente all'azione. Andiamo con ordine. È il 20 settembre e su internet circola un documento firmato da due brigatisti in carcere in cui si auspica uno scatto politico organizzativo della protesta in Val di Susa. È firmato da Alfredo D'Avanzo e Vincenzo Sisi, militanti della seconda posizione delle Brigate Rosse, quelli cioè che cercano contatti con i movimenti. In ottava respingono al mittente il documento e lo ritengono una mera provocazione. In queste ore viene diffuso un altro documento intitolato Lotte e composizione di classe 2012. È attribuibile sempre a componenti della seconda posizione brigatista. È scritto che le pratiche di sabotaggio del TAV hanno un carattere di concretezza e utilità nell'immediato, ma sono anche elemento avanzato per un futuro salto di qualità complessivo nello scontro sociale. Propaganda, tentativo di accreditarsi nei movimenti oppure terrorismo? Secondo la Corte di Cassazione, a differenza delle Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, responsabili materiali degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi, l'azione della cosiddetta seconda posizione brigatista non ha alcuna finalità di terrorismo. Scrivevano i giudici l'11 settembre del 2012 che il gruppo che faceva capo ad Avanzo e Sisi aveva una visione politica sovversiva e la strategia era appunto di usare le armi per far politica e non per fare la guerra. Ma al di là delle motivazioni restano i fatti. Nelle inchieste sugli omicidi di D'Antona e Biagi non tutti i militanti della prima posizione vennero arrestati, o meglio, gli inquirenti non riuscirono ad identificare alcune figure che ebbero certamente un ruolo in quelle azioni, come il brigatista sconosciuto che attendeva il professor Biagi all'uscita dell'Università di Modena e lo seguiva in treno fino a Bologna la sera del 19 marzo 2002, oppure come il militante che al termine dell'omicidio realizzava via telefono il controllo finale. Il loro sonno è durato 10 anni dopo gli arresti del 2003. Resteranno ancora a dormire? E per quanto tempo ancora? E siamo adesso a parlare di lavoro, molto rapidamente perché ci rimangono pochi minuti, come ogni anno l'indagine Excelsior Union Camere sui posti di lavoro che le aziende non riescono ad occupare, sono 47.000, non riescono a trovare i lavoratori giusti, le competenze giuste. Saluto Domenico Mauriello, responsabile del centro studi Union Camere. Mauriello, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Abbiamo veramente pochissimo tempo, però voglio sapere da lei quali sono le professioni che le aziende non trovano, posto che quest'anno il numero è calato. Il numero è calato perché ovviamente cala la domanda di lavoro delle imprese, ma comunque anche in questa situazione ci sono alcune professioni che continuano ad essere difficilmente trovate dalle imprese, che sono essenzialmente quelle legate all'efficienza dei processi. Stiamo parlando di tecnici informatici, telematici, delle comunicazioni, piuttosto che tecnici in campo ingegneristico. dove le carenze rispetto alla richiesta delle imprese sono soprattutto sulla preparazione, sull'esperienza, su alcune competenze che chiamiamo trasversali, come lavorare in gruppo, lavorare con responsabilità e autonomia, che purtroppo il mondo della scuola e dell'università ancora non riesce a fornire a questi ragazzi, perché ahimè non spinge sull'acceleratore per quello che riguarda l'alternanza scuola-lavoro, diffusione di stage e tirocini già durante il percorso formativo. La ringrazio, grazie a Domenico Mauriello, responsabile centro studi di Union Camere. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede su strade e autostrade e poi sarà il momento di Mario Platero. Avete notato che non abbiamo parlato dei 50 anni dall'assassinio di JFK proprio perché ne parla Mario Platero tra un attimo. Caminetti, stufe a legna e pellet. A febbraio, Fiera di Verona, progettofuoco.it. Vi presenta Strade in diretta. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono circa 4 km di coda per un incidente tra Ponte Drea Est e Montopoli Valdarno in direzione di Firenze, e per lavori necessari per un incidente avvenuto in mattinata ancora chiusa l'entrata di La Strassigna in direzione di Livorno. Sono invece per un cantiere i rallentamenti sulla A12 Genova-Livorno tra Nervi e Recco sulla carreggiata in direzione di Livorno. È tutto, a più tardi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E a Genova il quarto giorno di sciopero selvaggio dei lavoratori del trasporto pubblico locale, c'è un nuovo corteo. Ad uno dei tronconi del corteo ha partecipato anche Beppe Grillo. Bruxelles dice che vanno bene le dismissioni annunciate dall'Italia, ma per utilizzare il bonus investimenti resta l'esigenza di misure strutturali e non una tantum. Letta intanto dice no agli ayatollah del rigore e parte per Berlino. Categalà Radio 24, privatizzare la RAI non prima del 2016. In Sardegna si attendono nuove precipitazioni intense verso una deroga al patto di stabilità per gli interventi sul dissesto idrogeologico, dice a Radio 24 il ministro Orlando. E adesso è il momento di America 24 e di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. John Kennedy, un mito americano, direi un mito non soltanto per quello che gli è successo, per la sua storia, per la storia di sua moglie, dei suoi figli, per l'uccisione drammatica, ma anche perché il fratello poi è stato ucciso, Bobby Kennedy, perché dietro di lui c'era una grande famiglia che è diventata uno dei punti di riferimento per la politica americana e per il Partito Democratico americano. Ecco, oggi è la giornata, oggi è il giorno del 50° anniversario della sua morte, il 22 novembre del 63, John Kennedy fu assassinato. Non ho bisogno di ricordarvi i dettagli, li avete tutti chiarissimi. Alla Casa Bianca ci si sta preparando per la ricorrenza, la famiglia Kennedy sarà presente a queste celebrazioni, ma oggi, in questa giornata densa di emozioni, di ricordi per gli Stati Uniti d'America e per il mondo intero, perché tutti ricordano quella giornata, vorrei parlare di Kennedy, l'uomo, il mito e delle teorie del complotto. E per farlo, per affrontare queste due tematiche, ho con me ai microfoni di America 24 uno dei più autorevoli commentatori sull'assassinio di Kennedy, uno dei maggiori esperti del presidente, Edward J. Epstein, che ha appena pubblicato il suo diario sull'assassinio di Kennedy, una sua esperienza personale, un viaggio personale negli anni in cui ha rimesso insieme un puzzle anche molti anni dopo l'assassinio. Tra l'altro lo potete trovare questo libro sul nostro sito, su america24.com. Ed, good morning. Buongiorno Mario. Today I want to ask you about Kennedy. John Kennedy, the myth. John Kennedy became a myth after he was assassinated 50 years ago. The weekend after he was assassinated, his wife, Jackie Kennedy, had an interview with Teddy White. And she said in the interview trying to remember what the White House was like, she said it was like Camelot. Ecco, Epstein spiega il mito di John Kennedy. In realtà dice che il mito è nato subito dopo la sua morte, quando Jackie Kennedy, la moglie, ha concesso un'intervista a Ted White per Life Magazine, e in questa intervista ha introdotto il concetto di Camelot. Camelot era il mito di Re Artù, dei Cavalieri della Tavola Rotonda, di Lancelot, e lei rievocava come questo periodo in cui suo marito era il presidente degli Stati Uniti non fosse molto diverso da quel periodo, e come ci fossero decisioni difficili che dovevano essere prese. Era la realizzazione del sogno impossibile, del sogno difficile. Era bello, era giovane, era un guerriero nella guerra fredda, e dunque ecco che è stato molto facile accettare questo mito. E allora, qual era l'uomo dietro il mito prima della sua morte? Who was the man before his death? Kennedy had a mixed record. There were two great failures to his administration. The first was the Bay of Pigs invasion. Disaster two was sponsoring a coup d'etat against the dictator of Vietnam, Diem, and his brother Nguyen. E dice che in effetti nel 63, quando fu ucciso, diciamo che il profilo politico di John Kennedy non era altissimo, perché aveva commesso, secondo lui, due disastri, dice Ed. Il primo fu quello della Baia dei Porci, quando autorizzò 1400 anticastristi allo sbarco a Cuba senza però proteggerli con l'attacco aereo, e dunque i 1400 furono immediatamente arrestati. Disastro numero uno, dice. Ma il disastro numero due, è stato quello del Vietnam, perché lui autorizzò un colpo di Stato e poi la successiva uccisione di Diem e di Nguyen, e questo colpo di Stato nel Vietnam del Sud di fatto legò per sempre il destino degli Stati Uniti a quello del Vietnam e alla successiva guerra, che fu una delle più devastanti per gli Stati Uniti d'America. Ed, destra o sinistra nella teoria del complotto, ha sempre prevalso l'idea che le forze reazionarie, la CIA, l'FBI, lo stesso Lyndon Johnson, che ci fosse una matrice americana interna contro Kennedy. Perché queste tesi invece che tesi, per esempio, di Unione Sovietica, Guerra Fredda o Castro? The public could not accept that the murderer of Kennedy, or the alleged murderer of Kennedy, was a left-wing communist Marxist who had been to Soviet Union for two years. La risposta di Ed è molto chiara. In effetti, dice, sì, in effetti c'hai ragione, perché in quegli anni in America la violenza era una violenza di destra, e l'opinione pubblica non poteva accettare che ci fosse un americano che era stato per due anni in Russia, che aveva avuto dei rapporti con Cuba, e che in qualche modo potesse essere in grado di compiere questo omicidio. La predisposizione era quella per accogliere l'idea che i mandanti di questo omicidio fossero della destra, e dunque su quello si è costruito poi un altro mito, il mito del complotto. C'è qualche prova per quelle che sono le loro accuse di complotto? Garrison was a complete fraud. He was a magician. He had no evidence, and in a sense he discredited a lot of the legitimate questions about the Kennedy assassination. Allora, Ed è molto tranchante, devo dire, nel suo giudizio, perché dice che Garrison, che era un procuratore di New Orleans, che aveva trovato una chiave interpretativa che puntava a un complotto, in realtà, dice Ed, si inventava le cose come un mago, riusciva a mettere 1 più 1 uguale a 4, 4 più 4 uguale a 24, e quindi ha creato un quadro che era totalmente privo di fondamento. Oliver Stone, l'errore di Oliver Stone, dice, è stato quello di mettere Garrison, cioè una frode, come protagonista di questa storia. In realtà dei punti interrogativi c'erano, perché tre persone sono state uccise: prima Kennedy, poi un poliziotto ucciso da Oswald, poi Oswald, che è stato a sua volta ucciso da Ruby. Dunque si è creata immediatamente una sensazione: ma che cosa c'è dietro? Cosa sta succedendo? E poi solo molto tempo dopo abbiamo saputo, dice Ed Epstein, da carte della CIA, che nello stesso momento in cui John Kennedy veniva ucciso, i suoi agenti della CIA stavano cercando di organizzare un complotto, quello sì, per cercare di uccidere Castro. Il mistero dunque in qualche modo resta. L'unica certezza è che a uccidere Kennedy sia stato un uomo solo, ma tutti questi contorni di mistero restano, e altro non fanno che alimentare il mito di Camelot. sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potete trovarli su america24.com, scrivetemi su Twitter @MarioPlatero. Ve ne devo dire, in questa giornata della ricorrenza di questo presidente che ha fatto sognare un paese, che con la sua morte l'ha commosso ma allo stesso tempo lo ha svegliato dalla sua innocenza, direi che forse non c'è bisogno di fare una canzone, e rispettando l'appello del presidente americano che ha chiesto a tutta l'America di mettere la bandiera a mezz'asta, noi rinunciamo alla canzone in un simbolico minuto di silenzio. Da New York è tutto, Simone, ti restituisco la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24. Ed è veramente tutto, grazie a Pietro Lacorte in regia, Laura Faggin in redazione, in assistenza a tutta la redazione di Radio 24. Effetto Giorno torna lunedì alle 13. Una buona giornata da Simone Spezia.